Radio 24 Reportage. Berlino oltre il muro, di Raffaella Calandra. Davanti ad una Trabant lucidata per giri turistici, un operaio ammette quello che molti pensano, ma che pochi a Berlino confessano. Es gibt immer noch Ossis und so wie andersrum auch, es gibt immer noch die Wessis. Ci sono ancora quelli dell'est e quelli dell'ovest, dice, perché vent'anni dopo la caduta il muro è ancora nella testa di molti, almeno tra quanti alla sua ombra hanno vissuto. Così, quel confine di cemento, voluto per dare sembianze ancora più concrete alla barriera tra due opposti mondi, una volta crollato sotto i colpi dei picconi, è diventato indelebile spartiacque tra generazioni. Ad Alexanderplatz, superate le trivelle di un cantiere, foto in bianco e nero rievocano il giorno che cambiò le sorti del mondo. Una folla giubilante si abbraccia nei primi varchi aperti. In piedi sul muro, alle spalle della porta di Brandeburgo, ossi e vesti tornano ad essere quella notte semplicemente berlinesi. Wir sind das Volk, noi siamo il popolo, un vecchio altoparlante diffonde l'inno di allora, ora quasi coperto dai fischietti di un gruppo di disoccupati che protestano. Quella notte dell'89 ho colpito anch'io il muro, ci racconta Jürgen Lottenburger, ex cittadino della Berlino Est, ex vittima della Stasi, ex lettore di opere proibite al di là della cortina. Lavorava come tipografo e nell'83 ottenne il permesso di passaggio ad ovest, con la vita messa in due valigie. No. Ho aspettato 3 anni e mezzo prima di avere il permesso di andare ad ovest. In questi 3 anni la mia vita è stata sottoposta al setaccio e io ne ero consapevole. Quando sai che la polizia sta sbirciando nella tua esistenza, inevitabilmente ci pensi in ogni passaggio della giornata. E questo condizionamento ti resta dentro a lungo ed è quasi inevitabile per chi, come nel mio caso, è stato sotto controllo della Stasi anche dopo aver lasciato la DDR. Io ero già a Berlino Ovest da un po', quando ho scoperto che la polizia mi teneva ancora sotto controllo. Ero senza lavoro e 2 o 3 volte mi era venuto a trovare un mio ex collega. Abbiamo passato delle belle serate insieme e solo dopo ho scoperto che lui aveva riferito e protocollato tutte le nostre conversazioni. La Stasi sospettava che io potessi accogliere chi scappava dalla DDR. Ai tempi della Repubblica Democratica Tedesca, i confini ciascuno li abbatteva come poteva. Così Jürgen, per leggere libri occidentali, ci racconta, spesso li chiedeva ai giornalisti stranieri, come pure i dischi rock. Quel 9 novembre lui colpiva il muro e scattava foto, inebriato di libertà, ricorda ora, davanti ai pannelli dove quegli abbracci sono ormai pezzi di storia. Dopo i festeggiamenti e i cambiamenti, ammette, tanti miei amici rivorrebbero quella sicurezza della DDA, ma come antidoto contro l'ostalgie tira fuori 2 pezzi di muro che ci regala: rosso, quello dell'ovest, bianco dell'est, perché noi, nota, non potevamo neanche decorarlo, il muro. Nell'adrenalina di una città in continuo divenire, la fisarmonica di un ambulante è l'inattesa colonna sonora a 28 anni di ricordi. Jürgen Nagel, scrittore tedesco, il muro l'ha visto nascere e morire e nel mezzo, tra questi che chiama i suoi 2 shock, ha vissuto 28 anni della sua vita. Con la costruzione del muro nel 1961 tutta la mia vita, così come l'avevo pensata, è stata stravolta. Ho vissuto nella Berlino Est e per ragioni politiche nella DDR non ho potuto studiare. La mia vita professionale e personale è rimasta isolata da tutti i punti di riferimento. Dopo la costruzione del muro, quel 13 agosto del 1961, il mio aereo per Hannover e per la mia università partì senza di me. Si può immaginare come i 28 anni all'ombra del muro siano stati il peggior trauma della mia vita. Ho cercato comunque di tenere insieme la mia esistenza, privata e personale. Ho cercato di lavorare, ma le mie produzioni come scrittore non venivano pubblicate nella Repubblica Federale. Puoi immaginare quando all'improvviso poi quel muro non c'era più, semplicemente sparito. Già, come il 1961 con la costruzione del muro fu uno shock negativo, così quel novembre del 1989 fu uno shock, stavolta positivo, per me. So war das ein positiver Schock für mich. Ora anche per lui a volte è necessario guardare sulle cartine di Berlino per vedere dove correva esattamente il muro. A Potsdamer Platz il percorso dei mattoni rossi che lo indica incrocia un finto poliziotto di confine che timbra visti della DDA per turisti, sbatte contro edifici supermoderni, sfocia in cantieri aperti. 20 anni dopo divende la svolta, Berlino è una città ancora molto in divenire, con 1.700.000 abitanti in più e un turismo in crescita, snocciola Richard Meng, speaker del Senato berlinese. Wenn man heute die Probleme Berlin sieht. Chi oggi guarda i problemi di Berlino vede quelli di una qualsiasi grande città, ma Berlino è ancora in cammino, potrei dire. Oggi ci sono 3 tipi di berlinesi, i più anziani, che hanno avuto esperienza del muro, i più giovani, per i quali il muro è solo nell'immaginario storico, e i nuovi berlinesi, più di 1 milione venuti da ogni parte della Germania e del mondo. Circostanza che rende Berlino una vera, grande metropoli internazionale, che attira soprattutto i giovani. Se si va a guardare in profondità, si trovano ancora tracce delle divisioni e delle difficoltà, ma sono stati fatti passi enormi in questi anni. Sono state già colmate a Berlino, almeno per i dipendenti del comune, le differenze tuttora esistenti invece in altri Länder, tra gli impiegati degli stessi uffici dell'Ovest e dell'Est. Nella fastosa sede del municipio d'Alexanderplatz, ovunque ci sono immagini del prima e di un dopo non ancora completato. Berlino attira così tante persone anche perché la vita è abbastanza conveniente. La crisi qui praticamente non è arrivata. Berlino è l'unica città europea dove il turismo ha continuato a crescere. Noi abbiamo più 5%, Londra registra un meno 20. Berlino è una città improntata molto fortemente sull'industria culturale, niente a che fare con la crisi dell'auto di altre zone. Certo, non si può nascondere che tra i più anziani, soprattutto, ci sia chi era dell'est e ora è casomai in difficoltà, e per questo rimpiange certe garanzie sociali di allora, come c'è chi nell'ovest ha paura che tutti, o troppi soldi, vadano solo nella direzione dell'est. Ma non c'è alcuna tensione sociale in città. Per i miei figli, il muro appartiene alla storia. Berlino è semplicemente questa. Ma per le strade, piene di tratti di ogni parte del mondo e di tantissimi ragazzi, lo si tocca con mano il nuovo muro, stavolta generazionale e trasversale alla città, tra chi c'era ai tempi delle tante fughe e dei tanti morti e chi oggi associa il Checkpoint Charlie solo ad una cartolina per visitatori. Warum die Mauer eigentlich war, weiß ich auch nicht so genau, aber... Lo confessa candidamente questo giovane pieno di tatuaggi e di colori. Perché il muro sia stato costruito e perché poi sia sparito lo sa così così e di tante questioni non ha invece proprio idea. Potrebbe essere uno degli studenti che restano a bocca aperta all'università Humboldt quando la professoressa Michelle Mantusch racconta loro aneddoti della vita ai tempi della DDA. Sulla sua scrivania al Dipartimento di Romanistica, la Mantusch ci mostra i suoi personali souvenir della libertà ritrovata, una copia del nome della rosa e una sua foto di Firenze. Quello scatto di 20 anni fa immortala il suo primo viaggio oltre la cortina di ferro, in Trabant fino in Toscana. Questo libro invece è la memoria delle censure, ci dice. Nel nome della rosa c'è questa prefazione ambientata a Praga. Ebbene, questa parte non era contemplata nella nostra traduzione dell'opera di Umberto Eco. Quando poi ho potuto avere l'originale, ho letto tutte le pagine che mi mancavano. Anche questo succedeva nella DDR, che i libri fossero tradotti in parte. C'era una casa editrice che si occupava di letteratura internazionale, ma ovviamente tutti i testi dovevano essere prima vagliati dal Ministero della Cultura, prima di avere l'ok alla pubblicazione. In tal caso, poi, comunque le copie diffuse erano pochissime. Io ho cercato così tanto Italo Calvino, ad esempio. Per leggere poi dei libri diversi da quelli messi a disposizione nelle biblioteche, bisognava avere un'autorizzazione scritta. Ad esempio, io volevo leggere Jean-Paul Sartre e ho dovuto avere un permesso del mio professore che garantiva l'assoluta necessità per i miei studi di conoscere quest'autore. Zum Beispiel wollte ich mal Jean-Paul Sartre lesen. Brauchte man eine schriftliche Bestätigung vom Professor damals. Do you? La memoria di quello che è stato, per chi non l'ha vissuto, riemerge ora sotto forma di murales appena restaurati nel pezzo di muro più lungo rimasto a Kreuzberg, alla East Side Gallery, o nella musica degli U2 che festeggiano il crollo di quel mondo. Con la memoria, Berlino, come tutta la Germania, si misura da decenni anche nella conservazione dei segni esteriori di quel passato. Qui è successo come nelle famiglie povere, che una volta diventate ricche gettano tutto ciò che ricordi il tempo della miseria, sospira Stefan Koppelkamp, un fotografo che ha a lungo attraversato l'ex blocco sovietico. In mano ha uno scatto con una vetrina, dove in mezzo a tante bandiere della DDA si vedono tre fagiani appesi a testa in giù. Castagna nell'Allée, cuore della Berlino una volta dell'Est. Ora quel negozio è un bar che accoglie, tra lampade Liberty, decine di giovani. Die Fotos von mir, die hier in der Ausstellung hängen, sind entstanden am 7. Oktober 1989 in Ost-Berlin. I segni della storia che c'erano sulle facciate delle case sono tutti spariti, riflette. Ma rispetto a quegli scorci vuoti di vita che aveva attraversato e fotografato, sentendo i segni della repressione, ci dice, le tracce di quanti sono morti cercando di fuggire, ora c'è musica e gioia nelle strade. Allo stesso modo Nikolaus Becker, un altro fotografo di Berlino Est, a chi dice di avere nostalgia della DDA, risponde che a lui manca solo il pane croccante di allora e l'abitudine a fare scherzi. Serviva a sopportare meglio la realtà, sorride. Una realtà che si sbriciolò con i suoi incubi insieme alle pietre di quel muro il 9 novembre del 1989, rendendo il cielo sopra Berlino non più diviso, come lo aveva raccontato Christa Wolf, ma unificato come tutta la Germania.